vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 2 giugno, il sole in regione Sorto alle 5.19 tramonterà alle 20.52. Domani c'è luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Lucio Bondì. Per decenni, a cavallo tra 8 e 900, la bachicoltura ha rappresentato il valore aggiunto a una realtà di ristrettezze economiche della gente dei campi, salvando letteralmente dalla fame migliaia di famiglie. A questa pratica e a Gelsi, pianta madre per l'allevamento dei bachi da seta, è dedicata una mostra a Fagagna che vi proponiamo nel servizio di apertura. A seguire il corsivo di Enos Costantini, che se la prende con le ultime storture della globalizzazione, che ci fa arrivare prodotti che potremmo coltivare anche qui da noi in ingombranti e immarcescibili confezioni di plastica. A seguire la storia dell'allevamento bovino, focalizzato ancora sulla pezzata rossa friulana in pianura, mentre per la rubrica dei giardini avremo la seconda puntata dedicato al parco di Brazzacco, o meglio alla sua creatrice, l'americana Cora Slocomb, donna formidabile che ha lasciato un segno nella comunità locale. La storia della grappa si occupa invece del versante artistico legato a questo distillato, alle sue réclame ed etichette firmate da artisti illustri. Come di consueto, in chiusura, l'andamento dei mercati, le previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana. Gelsi e Bachicoltura hanno salvato la nostra gente. Il sottotitolo della mostra Morars e Galette. Gelsi e Bozzoli, allestita al piano terra del Palazzo Municipale di Fagagna. Una mostra che vuol rendere omaggio a una delle attività della campagna friulana che ha letteralmente salvato da un punto di vista economico tante famiglie. Ne parliamo oggi con Elisabetta Brunello, collaboratrice didattica del Museo di Chiese Cocel, che ha allestito assieme al Comune questa mostra, una mostra che rimarrà aperta fino al mese di giugno. Innanzitutto, perché avete voluto dedicarla? È un'attività che ha salvato veramente i nostri contadini dalla miseria, e quindi fare memoria di questo evento, infatti ti paierai sulla galette, voleva dire abbiamo i soldi per salvarci quando venderemo i bozzoli, e i prinsveste sacchette sono che i de galette. Quindi la gente ha avuto questa grande risorsa dall'allevamento del bacco da seta, un sacrificio enorme a cui la famiglia si sottoponeva per un mese e mezzo, ma che dava veramente un grande risultato. E a questa pratica è legata anche la figura del territorio agrario friulano, i Gelsi. Un monito per salvaguardare quello che è il simbolo della campagna friulana, il gelso, che è la pianta della provvidenza, e quindi anche con questa mostra si richiama l'attenzione su questi due aspetti, bachicoltura e Gelsi, che sono legati strettamente e che fanno parte della nostra vita e della nostra storia. La bachicoltura era anche il primo lavoro delle donne fuori dalla campagna. Due aspetti. L'uno, interessantissimo, quello degli osservatori bacologici, che sono sorti alla fine dell'Ottocento, proprio in seguito alla pebrina, che è stata quel grande flagello, quella grande malattia che ha decimato gli allevamenti dei bachi. E qui sono state selezionate delle ragazze che studiavano a Udine per studiare con i microscopi il seme, proprio per selezionare i semi malati. Dall'altro lato abbiamo il lavoro femminile nelle filande, il bozzolo che diventa seta, e qui c'è tutto il grande lavoro delle donne, le grandi storie delle filande friulane. Cosa possiamo vedere in mostra? Il cortile friulano era caratterizzato dal gelso, il pozzo e la vasca per abbeverare gli animali, quindi è un'immagine consueta. Poi tutti gli strumenti per l'utilizzo della foglia, che era l'alimento dei bachi, quindi anche costruiti dall'ingegno dei contadini, questi oggetti d'arte. Poi abbiamo una ricostruzione di un piccolo osservatorio bacologico molto affascinante, con la donna che si vede, la donna che lavora al microscopio. Un altro passaggio, la cucina dove la gente entra e si trova proprio a vedere le ristrettezze in cui la famiglia era costretta, perché i bachi erano i protagonisti e fino alla terza dormita devono stare al caldo, quindi è importante che loro stiano nella cucina. Magari la gente va fuori, i bambini dicono non sparavi in fura mangià, ma i bachi dovevano stare al caldo. Poi tutti gli strumenti dell'imbozzolamento, il pesson, le spipine, e tutti questi oggetti che sono ben visibili e raccontati. Poi abbiamo la sezione delle filande, quindi la trattura della seta, e poi molto affascinante l'angolo dei bacchi viventi. Abbiamo quattro graticci, le sgrigioles, con i nostri amici che vengono alimentati abbastanza di frequente, perché i bambini vengono a vederle, le persone vengono a vedere il loro sviluppo, dal piccolissimi fino all'imbozzolamento, fino a quando faranno il bozzolo. Quindi un lavoro che impegnava tutta la famiglia. I bambini non erano esenti da questo, non erano perché erano piccoli, tutti dovevano collaborare, dovevano tirare giù la foglia, dovevano aiutare. È bellissima la storia, no, di quella donna incinta di 6 mesi che, salendo la scala a Pioli con un braccio di foglie in mano, la scala si gira, lei rimane appesa e sotto le dicono mole le fue, e lei dice no, perché che si rovine. Si salvava proprio la foglia del gesso, proprio perché si salvava questo, no? La vita era, passava in secondo piano, quindi tutta la famiglia è impegnata e tutti quanti lavorano volentieri perché arriverà un risultato importante. Abbiamo parlato di bambini, adesso lo vedono dall'altra parte della barricata, arrivano con le scuole. Anche in questi giorni abbiamo diverse visite prenotate già, dove noi li accompagneremo in questo viaggio e racconteremo ai bambini di oggi, che proprio non hanno idea di questa cosa, è una storia che ci riguarda, che riguarda la nostra gente, che riguarda i loro nonni, i loro bisnonni, quindi credo sia importante che la sentano, non come una sterile operazione di nostalgia, ma come conoscenza, conoscenza di qualche cosa che appartiene alla nostra vita proprio e alla nostra storia. La globalizzazione ha ultimamente causato una serie di distorsioni anche nell'agricoltura nostrana. Basti pensare che in regione si produce solo il 10% dell'ortofrutta che consumiamo e ci permettiamo di far arrivare le mandorle dalla California e gli asparagi dal Perù, il tutto confezionato nella plastica, materiale, secondo Costantini, secondo per longevità solo a Dio. L'agricoltura serve a dar da mangiare alle persone. Vediamo l'agricoltura friulana. Vado a fare la spesa, le nocciole vengono dall'Oregon, che non è una valle della Carnia, le prugne vengono dalla California, che non è proprio la strada dell'orto, le noci vengono dalla California, le mandorle vengono dalla California. E come si sa, per fare una mandorla, dicesi una, ci vogliono 3,8 litri di acqua. Da ciò deduco che in California piove ogni giorno. Carne, latte, formaggi. Non c'è scritto, ma si sa che si fanno con la soia sudamericana e nordamericana. La soia brasiliana fa 2.000 km su camion prima di arrivare al mare e poi 20.000 km su nave prima di arrivare in Europa per scorazzare allegramente tra mangimifici e allevamenti. Dove e come si facciano i pomodori per salsa e concentrati lo sanno anche le vecchiette di Surisins che guardano tuttora i serial televisivi. Tra patate e fagioli, un tempo derrate di base, non trovo traccia di Friuli e neanche di Venezia Giulia. Trovo in compenso asparagi freschi che vengono dal Perù e dal Messico. Gli asparagi conservati vengono dal Perù o da un fantomatico luogo che si chiama Non Ue oppure Extra Ue. Ciò che è drammatico è che in regione produciamo soltanto il 10% degli ortaggi che consumiamo. Due osservazioni. Mettere degli ortaggi su un aereo, su un portacontainer o anche solo su un insonne camion è decisamente ridicolo. Gli ortaggi contengono più del 90% di acqua e non capisco il senso di consumare petrolio per portare in giro acqua. Certo, l'ortaggio contiene anche vitamine, antiossidanti e tante altre sostanze che ci proteggono dalle avversità della vita. Mi domando però che cosa resti di tale sostanze dopo che l'ortaggio ha fatto 2000 leghe sopra i mari. Ho giocato a chi arriva prima coi 13 milioni di tir della A4. Sono andato a fare la spesa, come vi dicevo, e sono rientrato carico di plastica. Non mi risulta che la plastica sia una produzione dell'agricoltura friulana. Una volta la produzione di cibo si accompagnava alla produzione di letame. Ora la distribuzione del cibo è indissolubilmente legata alla plastica, cioè a turpi, molecole che la natura non riconosce e quindi non digerisce, non ricicla. La plastica è uno dei tanti tentativi messi in atto dall'uomo per assomigliare a Dio. Direi che è anche più riuscito. Solo Dio è eterno, ma la plastica viene subito dopo. Dal 2012 non è più possibile iscrivere nuovi vigneti alla DOC Prosecco, un provvedimento analogo in arrivo per il Pinot Grigio DOC delle Venezie. Ce ne parla Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Sì, la legge 238/2016, nota anche come testo unico del vino, prevede per i vini DOC e GT la possibilità di attuare politiche di governo dell'offerta con l'obiettivo di raggiungere o comunque mantenere un equilibrio con la domanda e conseguentemente anche una certa stabilità dei prezzi delle uve e del vino. Nel concreto, quali sono gli strumenti utilizzabili dalle DOC? Sì, c'è la pratica dello stoccaggio che prevede un blocco amministrativo di una quota di vino di nuova produzione prima della sua certificazione, poi c'è il sistema della riserva vendemmiale che consente in annate eccezionali di certificare come DOC un quantitativo eccedente i limiti del disciplinare fino a un massimo del 20%, ma queste sono misure di natura eccezionale, la vera programmazione si fa dimensionando la produzione dell'uva sulla domanda di vino attesa e il dimensionamento della produzione passa necessariamente dal controllo delle superfici vitate e per la DOC della Venezia si prevede questo tipo di intervento. Quindi stop agli impianti di Pinot Grigio? Beh, non è corretto parlare di blocco degli impianti, ma piuttosto di blocco delle rivendicazioni, oltretutto per la sola DOC delle Venezie. Analogamente a quanto fatto per il Prosecco, la filiera vitivinicola ha chiesto alle regioni di disporre la sospensione temporanea dell'idoneità a produrre DOC delle Venezie per tutte le superfici di Pinot Grigio che saranno piantate o sovrainestate a partire dal prossimo 1 agosto. Saranno comunque ritenuti idonei anche i vigneti realizzati dopo il 1 agosto 2019, purché realizzati con autorizzazioni derivanti dall'estirpazione di una pari superficie di pino grigio all'interno dello stesso comprensorio della denominazione e la misura sarà applicata fino al 31 luglio 2022. E per le altre DOC del territorio che contemplano la tipologia Pinot Grigio? Beh, per queste denominazioni, come la DOC Friuli Grave, DOC Friuli, Coglio, Coglio Orientali, eccetera, non cambierà praticamente nulla. Come in tutte le puntate dalla pastorizia alla zootecnia, con Sandro Menegon dobbiamo ricordare anche i tragici eventi della Seconda Guerra Mondiale, sebbene meno drastici, chiaramente riferiti però solo al settore zootecnico, nonostante gli ammassi e le razzie rispetto alla Grande Guerra. Nel 1947 la società Levatori di Butrio con animali pezzati rossi e frulani, l'azienda Saici di Tor Viscosa, con Simmental originali dalla Svizzera, parteciparono al concorso Bovini e la Fiera di Milano, vincendo il primo premio nella categoria gruppi e in quella riproduttori maschi. Nel 1948 venne organizzato il convegno levatori di razza pezzata rossa frulana e Udine. In quell'occasione, considerando lo stato dell'allevamento, le caratteristiche della razza e le possibilità di miglioramento, il veterinario Gaspardi propose i coefficienti 1,5 per il latte, 1 per la carne e 0,5 per il lavoro. La proposta consentiva l'aumento della produzione lattea senza compromettere l'attitudine della produzione della carne. Si riteneva sufficiente il peso 0,5 attribuito al lavoro per sopperire le esigenze delle piccole aziende, sperando un maggior utilizzo degli equini e vedendo nell'utilizzo dei residuati bellici aperta la via della meccanizzazione. E dopo? Alcuni anni più tardi la razza venne inclusa tra le razze bovine di utilità nazionale e nel 1956 fu istituita l'Associazione Nazionale Pezzata Rossa Friulana. Il 18-19 settembre del 59 si tenne a Udine il primo mercato nazionale dei bovini selezionati di razza Pezzata Rossa Friulana. Dal termine nazionale affiancato all'Associazione Pezzata Rossa Friulana e al mercato dei bovini selezionati di razza Pezzata Rossa Friulana si può dunque capire che la razza si fosse diffusa anche fuori dall'area di origine. Sì, verso la fine degli anni 50 la razza cominciò a diffondersi nella destra tagliamento e successivamente anche nel Veneto e in altre regioni italiane, nel Foggiano, nella Maremma tosco-laziale, in Emilia, Toscana, Marche, Calabria e Sicilia. La scorsa puntata Franca Merluzzi per la rubrica dei giardini ci aveva parlato del parco di Brazzacco. Oggi ci parla della sua musa ispiratrice, una donna straordinaria che ha disegnato, pensato e curato questo parco. È l'americana Cora Slocum, nata nel 1862 a New Orleans in Louisiana. A Roma conobbe De Talmo di Brazzat Savornin, che sposò a New York, e nel dicembre dello stesso anno Cora si trasferì con lui a Brazzat, e quando giunse nel giardino della villa rimase sorpresa di trovare le rose fiorite tra la neve. Cora si innamorò del Friuli. Intraprendente e dinamica, nei decenni successivi offrì possibilità di lavoro alle donne povere dei paesi vicini, partendo dalla formazione, e infatti istituì 7 scuole cooperative di merletti e riuscì a promuovere altre iniziative, la fabbrica dei biscotti a Martignacco e quella dei giocattoli a Fagagna, a vincere premi e a creare una rete di vendite dei prodotti in Europa e in America. Come logo adottò il trifoglio, la pianta da lei preferita, che rispecchiava proprio il disegno del parco di Brazzat, progettato da lei ispirandosi ai concetti anglosassoni, con distese di prati verdi alternati ad aree boschive. Guardando la zona del laghetto, ora invasa dalla vegetazione acquatica, pare di cogliere ancora quella forma di trifoglio con il prato al centro e ai bordi alberi d'alto fusto. Cora promosse anche l'esportazione della viola, nota come mammola di Udine, e della viola di Brazzat, un ibrido profumatissimo creato dal cognato Filippo. La coltivazione delle viole, esportate in Europa in paesi lontani, Stati Uniti e Russia, divenne una fonte di reddito per i vivaisti friulani e per alcune famiglie. Purtroppo la viola di Brazzat scomparve progressivamente dalla produzione friulana e si deve a Mirella Colavini il ritrovamento di questa viola presso un vivaio scozzese. Gabriele Cagliazza, per la sua Storia della Grappa, oggi analizza quanto la produzione di questo distillato entri con le sue etichette e réclame anche nella storia dell'arte. Recentemente a Valvasone si è presentata una storia del vino in Friuli attraverso l'arte. Parrebbe difficile fare altrettanto per il Petès. Tuttavia, in una rassegna dedicata alla storia della grappa friulana, non si può non ricordare che persino il distillato, un tempo tanto caro quasi soltanto alle persone umili e solo da pochi decenni assurto agli onori delle cronache e delle tavole, ha avuto una sua rilevanza anche sotto il profilo artistico. Al di là della maggiore o minore raffinatezza di certe attrezzature distillatorie, intere o loro porzioni, rispetto ad altre, alambicchi, serpentine, colonne, eccetera, al di là della maggiore o minore abilità dei maestri distillatori, si pensa ai lambiccari, agli snappins, attivi su trabicoli itineranti a quattro ruote, nonché ai numerosi padri fondatori di aziende divenute poi famose. E al di là della maggiore o minore eleganza di certe distillerie rispetto ad altre, a modo esempio si guardi al fascino dell'antica villa Sasso di Mereto di Capitolo, divenuta più tardi sede della distilleria Periz alias Gortani, o alla bellezza della grande sede udinese della Canciani e Cremese, realizzata da Silvio Piccini, architettura Art Nouveau del 1905, di cui oggi resta poco più del magnifico portale fiancheggiante la portineria, al di là di tutto ciò, insomma, è comunque impossibile dimenticare i tanti episodi di pittura, grafica, scultura e altre arti impropriamente definite minori che hanno accompagnato questa lenta ma finora incessante evoluzione, dalla pittura alla grafica alla scultura, senza scordarsi quelle che un tempo non così lontano erano più comunemente definite alla francese réclame, ovvero sia le pubblicità, radiofoniche, giornalistiche, televisive e oggi anche telematiche, né tantomeno le eleganti bottiglie d'autore o da collezione lanciate dalle distillerie Pagura, Aquileia, Nonino e così via. In ambito pittorico pare giusto ricordare perlomeno Otto D'Angelo, l'acutissimo e versatile poeta coi pennelli, che prediligeva le scene di genere d'ambientazione agreste, come il dipinto La Sgnapute Aghe di Vite, ritratto di un'anziana donna friulana intenta a sorseggiare un grappino con parsimonia ma palese soddisfazione. Nell'ambito scultoreo vale la pena menzionare almeno il rilievo raffigurante un distillatore clandestino all'opera Fra i Campi al Chiar di Luna, opera di D'Arco, della cantina Produttori Cormons, ma altresì i 9 quadri in terracotta policroma che compongono il pannello 72 del Troide Memorie, realizzato dall'associazione Il Cobolar a Samardenchia di Tarcento, basso rilievo riproducente la distillazione clandestina indoor. Passando alla grafica pubblicitaria, ecco, fra i tanti esempi, la simpatica coppietta raffigurata da Secondo Bignardi sulla vignetta commissionata di Dall'Aster di Gorizia, o le locandine cartonate illustrate dal caricaturista Giovanni Zanini, in arte Nino Zà, per la grappa Candolini del 46, o quelle abilmente disegnate 20 anni prima per la distilleria agricola Canciani e Cremese, niente meno che dal grande Achille Beltrame, popolarissimo autore delle tavole a colori della Domenica del Corriere. Ed ora con Reginetta Giacomini l'andamento dei mercati agricoli. Prezzi in ripresa venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,40 e 16,60 euro al quintale, IVA esclusa, e la soia tra 32,40 e 32,90 euro. Non quotati invece il frumento e l'orzo. Rispetto a un anno fa, il prezzo del mais è diminuito di circa 1 euro al quintale e quello della soia di circa 4 euro. Andamento buono anche negli scambi al mercato ortofrutticolo di Udine, dove l'insalata gentile e la lattuga Trocadero sono state pagate tra 1,30 e 1,40 al chilogrammo, la cicoria tra 1 euro e 1,20, le zucchine tra 1,20 e 1,30, la scarola riccia tra 2,60 e 2,70, i finocchi tra 1 euro e 1,30, il radicchio rosso tondo tra 1,50 e 1,60, quello di Treviso precoce tra 1,70 e 2 euro, i cavoli tra 1,40 e 1,50, gli asparagi fra 3,50 e 5,50, le patate novelle fra 1,10 e 1,20, le fragole fra 3,50 e 4 euro, le ciliegie tra 2,50 e 5 euro, le pesche pesche noci tra 1,80 e 2,50. Segno positivo anche nel settore della pesca per le migliorate condizioni meteo. Alla cooperativa Pescartori di Marano Lagunare, i branzini su divisi in piccoli, medi e grandi, sono quotati tra 30 e 37 euro il chilo, IVA esclusa, le orate tra 10 e 15 euro, le sogliole tra 8 e 25 euro, le canocce tra 17 e 18 euro, le seppie tra 7 e 9 euro, i laterini a 8 euro, i gamberetti di laguna tra 13 e 15 euro, le anguille 16 euro, i palombi da 7 a 12 euro, le capesante a 16,50 euro, i canestrelli a 4 euro. Domanda sempre sostenuta nel comparto caseario, con il prezzo del montasio fresco compreso tra 5,40 e 5,95 il chilo, IVA esclusa. Il latte naturale di vacca francostalla compresa a refrigerazione, quotato dalla Camera di Commercio di Udine a 37,50 centesimi il litro, più premi qualità e IVA. E con il previsore dell'Osmer Arpa Sergio Nordio sentiamo cosa ci riserverà il tempo nella settimana entrante. Questo maggio verrà archiviato come tra i più freddi e piovosi degli ultimi 50 anni, in netta controtendenza con ciò che abbiamo vissuto a partire dagli anni 90, quando le temperature medie presentavano frequenti anticipi dell'estate. Nel 1984 e nel 91 maggio comunque fu più freddo di quest'anno, ma l'anno scorso la media mensile per la pianura fu di 5 gradi e mezzo più alta, come dire che l'anno scorso avevamo la temperatura media di Palermo e quest'anno invece quella di Berlino. Le piogge sono state molto abbondanti e dopo il 2013 è stato il maggio più piovoso, con cumulati più modesti, si fa per dire, sulla costa a Trieste con 160 mm circa e più abbondanti, come spesso accade, sulle Prealpi Giulie, dove si sono sferrati i 580, mentre in pianura si sono registrati valori fra i 210 e i 410 mm circa. Ora le temperature sono aumentate ed è tornato finalmente a splendere il sole, ma la presenza a tratti in quota di masse d'aria umide provenienti da nord-est favorirà, almeno fino a mercoledì, ogni giorno nel pomeriggio sera, la possibilità di rovesci e temporali sparsi, specie sulla zona montana e sulla fascia orientale. Le temperature massime varieranno dai 22-24 gradi della costa ai 27-29 gradi della pianura, con venti a regime di brezza. Successivamente, l'evoluzione è piuttosto incerta. Potrebbe avvicinarsi lentamente una profonda depressione con aria molto fresca che già si annuncerà sulla Francia ad inizio settimana. Oppure potremmo rimanere ancora protetti fino al termine della settimana dal promontorio anticiclone, con aria calda in quota, piuttosto umida invece negli strati medio-bassi, condizione che potrebbe portare caldo non eccessivo ma piuttosto afoso. Vista questa notevole diversità nell'evoluzione dello scenario meteorologico del prossimo fine settimana, è indispensabile seguire costantemente gli aggiornamenti delle previsioni. Termina qui la puntata, vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano della settimana: ai primi di unch la falz tal pugn, ovvero ai primi di giugno la falce in pugno. Iniziava la stagione del taglio del grano. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Lucio Bondi e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Thank you.